Tra i dolci e tra i balocchi messi lì nel salottino che nel dì della Befana lui trovò. Il bimbo ansiosamente scelse subito un trenino, quel trenin che tante volte si sognò. E nel vederlo andare, sbuffare e poi girare, il bimbo è pieno di felicità. Va trenino di latta verde, cammina, cammina, sorpassa i monti e il mare, ogni strada, ogni cosa lontan si perde. Cammina, cammina e mai non ti fermare, c'è tutto un mondo nuovo che t'aspetta tra le rose, tra le spine, la tua meta, oh bimbo è là. Incontra il tuo destino, vatta fretta, tra le rose, tra le spine troverai felicità. Va trenino di latta verde, cammina, cammina e mai non ti fermare. Berretto di studente, poi casacca di soldato, quanti treni vide poi passare ancora. Il treno delle nozze d'un bimbo lui mandato sopra il piccolo vagone dell'amore. E tutto ricomincia, e tutto si rinnova, ed il trenino torna a manovrare. Il trenino di latta verde, cammina, cammina, e mai si può fermare. Sul binario pur il tempo lontan si perde. Cammina, cammina, nell'ansia d'arrivare. Ogni vagone porta un'illusione, una storia che comincia, una storia che finì. E un fare di speranza ogni stazione, scende un sogno, sale un sogno e si corre via così. Il trenino di latta verde, cammina, cammina, la vita è tutta qui. Ciuffe, ciuffe, ciuffe, fa il trenino, cammina, cammina, la vita è tutta qui.